Salva Danaio. Sono le 12 e 12 minuti di venerdì 4 ottobre 2013. Buongiorno anche da parte mia, da Roberta Pellegatta. Ben trovati a Salva Danaio, versione ridotta. Saremo in onda sino alle 12.30. E come avete sentito poco fa durante il GR, in questo appuntamento ci occupiamo di quelle persone che vengono anche da paesi molto lontani, lasciando spesso figli e famiglie per lavorare con noi, tenere pulite le nostre case, accudire i nostri anziani, i nostri malati. Figure ormai possiamo dire diventate indispensabili. Parliamo dunque oggi di colf e badanti. Naturalmente qui a Salva Danaio lo facciamo con un taglio di servizio. Lo spunto è la scadenza, giovedì prossimo, il 10 di ottobre, per il pagamento dei contributi INPS del terzo trimestre 2013, ma ci sono anche le novità legate al nuovo contratto nazionale che disciplina il rapporto di lavoro domestico, che è entrato in vigore il 1 luglio scorso. Quindi se vi avvalete di un collaboratore domestico oppure fate questo lavoro, avete dei dubbi e avete delle domande, prenotatevi subito, fatelo subito perché abbiamo davvero poco tempo. Il numero è gratuito per le telefonate 800 24 00 24 e poi c'è un numero per gli sms che è il 349 238 6666. Io ringrazio per essere con noi Paola Mandarini, che è la referente dell'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico Assindat-Colf. Ben trovata. Buongiorno. E grazie anche a Elena Maria Vanelli, funzionario della segreteria sindacale FISASCAT, la federazione di categoria della CISL. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutte e a tutti. Paola Mandarini, partiamo proprio dalla scadenza di giovedì prossimo, quella relativa al pagamento dei contributi. Da questo punto di vista non ci sono novità introdotte dal nuovo contratto? No, per quanto riguarda il nuovo contratto non attiene la parte contributiva ma solo la parte contrattuale, quindi la gestione delle norme che gestiscono il rapporto di lavoro domestico tra le parti. I contributi è una materia che viene normata dall'INPS, e la novità è del 2013 che adesso l'INPS ha due tabelle contributive, una per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e una per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Quest'ultima tabella non si applica però per i rapporti di lavoro a tempo determinato per sostituzione di lavoratori già in forza. Ad esempio la mia lavoratrice va in maternità, la sostituisco per questi 5 mesi di assunzione obbligatoria con un'altra lavoratrice, allora in questo caso non dovrò pagare il contributo maggiorato dell'aliquota prevista dell'1,40% addizionale prevista con l'introduzione dell'assicurazione contributo dell'ASPI, perché con l'introduzione del contributo ASPI è stata prevista, diciamo, questa nuova tabella contributiva. Quindi ci sono queste due tabelle contributive, perché questa differenziazione? Per penalizzare in qualche modo il rapporto? Diciamo, si vogliono incentivare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se nel settore domestico la maggior parte dei rapporti di lavoro è a tempo indeterminato. I tempi determinati vengono utilizzati soprattutto per fare le sostituzioni delle lavoratrici in quel momento assenti per ferie, per rientro in patria o per maternità. Ecco, a proposito di maternità, tra poco ne parliamo perché da questo punto di vista ci sono delle novità, ma prima con Elena Maria Vanelli vorrei invece parlare della cassa colf. Sì, la cassa colf è un importante strumento contrattuale bilaterale, quindi sostenuto e fatto per tutte e due le parti che vengono in contatto con i datori di lavoro e lavoratori. In sostanza è un'assistenza integrativa per le lavoratrici e i lavoratori che hanno, come dire, una tutela della malattia, diciamo, particolarmente ridotta. Ecco, diciamo così, per ovviamente la natura stessa del rapporto di lavoro, che come tutti ben comprenderanno è un rapporto di lavoro molto particolare, molto particolare. E quindi è stata istituita con il contratto nazionale scorso questa cassa colf. È una cassa dove praticamente sia i datori di lavoro sia le lavoratrici e i lavoratori versano una piccolissima parte del salario, in particolare è lo 0,03 centesimi, di cui 0,02 centesimi datori di lavoro e 0,01 centesimi per i lavoratori stessi. Il versamento alla cassa viene fatto attraverso il bollettino per il versamento dei contributi pubblici. Sta funzionando molto bene questa cassa Colf, perché nel frattempo, come dire, la cassa, diciamo, si è riempita, perché ormai è un po' sono parecchi mesi che funziona. A questa cassa le lavoratrici possono chiedere sia il rimborso di alcuni ticket per prestazioni di alta specializzazione sanitaria, e c'è l'elenco che si può trovare sul sito stesso della Cassa Colf, oppure può riconoscere con alcune, come dire, con alcuni criteri un'indennità giornaliera di 20 euro per un periodo in caso di ricovero, per anche, come dire, per il parto, per interventi chirurgici, oppure per ricoveri con più di 3 giorni c'è anche un diritto per i periodi di convalescenza, anche qui 20 euro al giorno, ma limitati ovviamente nel tempo. È uno strumento bilaterale perché c'è anche la possibilità per i datori di lavoro di avere la copertura della responsabilità civile in caso, che ognuno di noi sta scongiurando, di infortunio della lavoratrice. Certo, quindi una sorta di assicurazione per i datori. Esatto, quindi sostanzialmente è questo. La pagano entrambi e entrambi ne giovano. Prego? La pagano entrambi e entrambi ne giovano. Tutela per entrambi. Anche se è, come dire, la cassa d'assistenza, come dire, per le lavoratrici e i lavoratori, ma c'è anche questa ulteriore tutela per i datori di lavoro, perché appunto è uno strumento, si dice in sindacalese, bilaterale. Cioè, Paola Mandarini voleva aggiungere qualcosa, l'ho sentita in sottofondo. È una tutela prevista per entrambi, sia per i datori che per i lavoratori, come diceva la collega della FISASCAP. Certo. A proposito di maternità, da questo punto di vista ci sono delle novità introdotte dall'ultimo contratto nazionale. Quali sono, Paola Mandarini? Ma per quanto riguarda la maternità, l'unica differenza rispetto al contratto precedente è in caso di rientro della maternità, il datore di lavoro può licenziare la lavoratrice, dando però un preavviso, il doppio dei termini di preavviso previsti per le altre lavoratrici, entro il 31° giorno dal rientro dalla maternità. E la tutela della maternità nel settore domestico sono i cinque mesi, l'assunzione obbligatoria dei 5 mesi, quindi al rientro entro il 31° giorno il datore di lavoro che intende chiudere il rapporto di lavoro deve dare un preavviso il doppio. Ad esempio, se io devo dare 15 giorni di preavviso, adesso come datore di lavoro dovrò dare 30 giorni di preavviso. Stanno già arrivando delle domande che riguardano i permessi, insomma le festività eccetera, per quanto riguarda le colf e le badanti. Da questo punto di vista c'è una recente ricerca, insomma, dalla quale è emerso un dato che può essere interessante sicuramente anche da commentare. Questa ricerca è l'indagine sull'assistenza familiare in Italia, il contributo degli immigrati, è stata condotta da Agenzia TU di Unicredit e AIMA Firenze. Da questa ricerca risulta appunto che gli assistenti familiari sono circa, non è da questa ricerca, è dall'Istat, sono circa 750.000, vengono soprattutto dalla Romania, poi dall'Ucraina, dalle Filippine, dall'Ecuador, dallo Sri Lanka e dal Perù. E la cosa che appunto vorrei commentare con le mie ospiti è che quasi 4 badanti su 10, il 33,6% per la precisione, non usufruiscono pienamente del giorno di riposo settimanale, di cui ovviamente hanno diritto, anzi che è obbligatorio, ma insomma non è così. Quindi vorrei da questo punto di vista un commento da Elena Maria Vanelli. Premettendo che appunto il riposo settimanale è un diritto sancito dalla legge italiana, ma non solo, anche europea, e che esiste la possibilità di deroghe di questo diritto, ma concordato, ma stiamo parlando di lavoratori dipendenti, non certo di lavoratori domestici, insomma, quindi è possibile concordare con il sindacato deroghe di questo diritto. Credo che questo risultato sia molto, come dire, molto veritiero, molto realista. È una cosa che accade, ci sono delle ragioni oggettive anche, lo dico perché ripeto, questo è un rapporto di lavoro particolare, quindi è tra una famiglia, un lavoratore, una lavoratrice, spesso vengono appunto affidati persone anziane che magari autosufficienti ma che esigono la presenza di qualcuno, e capita che la tentazione di attraverso il lavoro straordinario, magari retribuito in nero, capita che questa tentazione da parte dei parenti dell'assistito, insomma, venga colta. La cosa che io vorrei dire è attenzione, perché qualsiasi patto diverso dalla legge è nullo, quindi quello che poi noi registriamo, che al termine del rapporto di lavoro, a prescindere da quanto è avvenuto durante il rapporto di lavoro, questo può essere una fonte di contenzioso. 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per gli sms. Andiamo a Pisa da Graziella, ben trovata. Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, io volevo precisare una cosa, che mentre si sta cercando di snellire tutte quelle che sono le procedure di assunzione, diciamo di lavori anche non sempre fissi e indeterminati, perché in Italia purtroppo per varie ragioni il lavoro sarà sempre meno fisso, e quindi se si costringe le persone a complicare sempre più la vita per poter aver bisogno di un dipendente, non solo si incentiva il lavoro nero, perché questo sappiamo benissimo che è così, ma si manda anche a casa quelle poche persone con cui cercano di essere precisi e cercano di assumere, regolarizzando le persone, perché qui in un'Italia dove tutto è traballante, dal lavoro della persona stessa che assume momentaneamente una cosa perché ha bisogno, dalla persona che facendo una libera professione ha bisogno saltuariamente di una colf, dalla persona che è ammalata, anche giovane, che ha bisogno di un aiuto saltuare, se tutto viene continuato e complicato dando la colpa a questo, dando la colpa a quello, mettendo in moto l'ASPI, mettendo in moto la gente, costringendola a passare sempre ai CAF per fare le sue cose personali, secondo me il sindacato dovrebbe riflettere e cercare di agevolare queste situazioni e non complicarle tutti i giorni mettendo in moto tutta serie di strutture costosa per la persona che ne deve usufruire. La ringrazio, Graziella. Io direi che questa osservazione merita la risposta di entrambe le mie ospiti, a cominciare da Elena Maria Vannelli. Io dico una cosa sola, insomma, qui stiamo parlando di un rapporto di lavoro, queste sono persone, tra l'altro oggi è lutto nazionale, quindi come dire, siamo tutti abbastanza in grado di comprendere che queste sono persone che arrivano da altri paesi e vengono per lavorare, per guadagnare un salario, e quindi si tratta di un rapporto di lavoro, e piaccia o no, i rapporti di lavoro devono essere regolamentati. Le associazioni, dalle associazioni sindacali alle associazioni anche insomma padronali, poi lo dirà la dottoressa Mandarini, credo, ma cercano di mettere a disposizione dei servizi, ma qui si tratta di capire che, essendo un rapporto di lavoro, il rapporto di lavoro ha delle regole e queste regole vanno rispettate. Devo dire che in particolare il rapporto di lavoro delle cose delle badanti è tra i più semplificati che esistono, proprio perché ci si rende conto, anche noi quando facciamo le trattative, le due parti si rendono conto che si sta parlando di famiglie bisognose che assumono una persona, ma questo non toglie il fatto che quella persona che viene assunta è una lavoratrice dipendente con diritti. In questo paese ci sono delle leggi, in Europa ci sono delle leggi, addirittura c'è una convenzione globale che l'Italia, sui diritti minimi delle badanti e delle colf, che l'Italia è stato il primo paese in Europa a firmare, e questi vanno rispettati. Poi va bene, ho giusto un minuto, ho giusto mettere a disposizione servizi. Grazie, ho giusto un minuto per sentire anche Paola Mandarini. Concordo con la collega, è un apporto di lavoro e vanno tutelati sia i datori di lavoro che i lavoratori, per cui non ci sono queste regole così restrittive come diceva la signora, e poi comunque le parti sociali anche nel rinnovo contrattuale si sono messi, diciamo, hanno visto il momento storico in cui ci trovavamo e hanno cercato anche di aiutare le famiglie, soprattutto le famiglie più bisognose, quelle dei non autosufficienti, per garantirgli, riprendendo il discorso di prima, un'assistenza continuativa 7 giorni su 7. Si è data la possibilità ai datori di lavoro di assumere delle persone per i giorni di riposo di queste collaboratrici familiari a un costo ridotto rispetto alla precedente, al precedente contratto. Va bene, dobbiamo chiudere qui. Grazie a Paola Mandarini di Assinat Colf, Elena Maria Vanelli di Fisascat, grazie per il vostro intervento, e dobbiamo salutarci perché si conclude qui Salvadanaio, così come lo conoscete, dopo 14 anni di onorato servizio, per rinascere però rinnovato e migliorato lunedì. Il nuovo programma co-condotto da Nicoletta Garbone e Deborah Rosciani si intitolerà Cuori e Denari, sarà in onda ogni giorno dalle 11 alle 12:30. Io ringrazio Marco Lombardo in redazione, Carmelo Mela Lauricella in regia, a voi per l'ascolto, una buona giornata da Roberta Pellegatta. Salvadanaio.